con Andrea Satta dei Ted de Bois per parlare di Stradarolo. Tre giorni di arte su strada, Zagarolo, dal 13 al 15 settembre 2019. Andrea, ben trovato. Ciao, eccoci. Buongiorno. Per chi non lo conoscesse, raccontiamo Stradarolo. È un festival particolare che, insomma, sono 20 anni che lo facciamo. Nasce tutto sulla strada, raccontiamo in fondo la vita dei pendolari. Abbiamo tre corrieri il sabato pomeriggio, sulle quali potrete conoscere dei personaggi molto particolari: Giuseppe Cederna, Marco Tardelli, Nero Mondiale, e c'è una corriera gastronomica con Peppone Calabrese, che forse qualcuno conosce perché è un esperto di cibi naturali, di slow food. Una corriera gastronomica, una corriera contro sul mito dello sport, una corriera sul mito del racconto, quindi tre corriere stili di vita. Ma il tema di quest'anno è proprio quello, cioè plastic free. Noi faremo di tutto per far conoscere, per avvicinare il pubblico a questo concetto, a questa possibilità, che poi è la possibilità. Infatti venerdì sera alla Fontana Nuova, uno spazio dentro il paese dove forse vanno in pochi, avremo un'apertura con Tote Comanda, con lo spettacolo di Sei Cali e poi incontro con il ragazzo di Saio Cornuccio, con cui abbiamo un bellissimo rapporto. Sono ragazzi 17-18 anni che hanno deciso di prendere in mano il loro destino e quindi gli impegnati nella tutela dell'ambiente. Gli abbiamo prestato anche il palco a Pedali quando Greta Thunberg è venuta qui a Roma a Piazza del Popolo, forse qualcuno c'era o qualcuno se lo ricorderà. E poi i piccoli che tutti conoscono, no? Qui pianoforti messi nelle nuove sparti traffico, con tanti ospiti speciali e particolari. Viene Agostino Ferrente con un esempio, poi il caso cinematografico dell'anno. Forse Agostino lo conoscete perché certo, è l'autore delle cose belle, dell'orchestra di Piazza Vittorio. Cecilia Mancini, 92 anni, la documentarista meravigliosa, con il tempo di Piazza del Genio, con le sue immagini, con le sue storie e con un suo film. Ci sono anche tanti altri ospiti, gli artisti del circo stradale, del circo teatrale di strada, dello Spironautas, una nave con le loro acrobazie. Possiamo conoscere da vicino Nada, una cantautrice alla quale siamo tutti molto, molto, molto affezionati. Faremo un omaggio speciale a Francesco Di Giacomo, che mi è sempre stato iscritto in tante cose della vita, ma anche in effetti la Stradarolo, e quindi ogni anno noi dedichiamo una piazza proprio a lui. C'è la danza contemporanea, e ci sono tante attività per i bambini, laboratori, interventi di lega ambiente, caccia al tesoro, e un pranzo popolare la domenica di centinaia di metri con tanta musica popolare, da Alessandro, a Daniele di Bonaventura, al coro multietnico di Saremo Pigliani, alla formazione Zinia di Nora Tigers, a Stefano Saletti con l'Opera Ensemble e Barbara Eramo, tanti autori bravissimi, giovani come Carmine Torchia e Carlo Valente. Un omaggio speciale a Pier Giorgio Faragia, un altro amico del festival, un ragazzo che non c'è più, un cantautore cui tenevamo tanto il sabato pomeriggio. Mi sono dimenticato la metà delle cose, ma insomma. Quali sono i criteri di scelta dei tanti ospiti che invitate ogni anno? Noi durante l'anno viviamo sempre insieme con altri artisti, ogni anno ne invitiamo alcuni, cercando sempre di rinnovare la proposta, di puntare sulla meraviglia, sulla semplicità e devo dirti anche sulla disponibilità a misurarsi con una cosa che non è facile, perché certo, lavorare a livello strada, rinunciare al camerino, alla frutta fresca, al management, a tante cose, non è una cosa che proprio ti viene naturale, quindi devi essere disposto a suonare la chitarra elettrica seduto sul muretto di una piazzetta, a raccontarti sui gradini, a vedere, a ascoltare il pubblico semplicemente come una famiglia, quindi è un rapporto. Quattro pacchi medi. Senti, come saranno articolate le giornate? Venerdì c'è l'apertura con Giove Covatta e i ragazzi di di Fridays for Future alle 9 e alle 8, pane e olio in un forno antico che c'è ancora lì in paese, al forno antico del paese. E il sabato alle 3 cominciano le corriere, quella di Cederna, quella di Marco Cappelli, quella di Popoli Calabresi, quella gastronomica, e vanno una a Gallicano, una a San Cesareo, l'altra a Valle Martella, dove c'è un blitz di un pianoforte con Angelo Bellini dei Tet, che suona un pianoforte acustico a coda in mezzo alla rotonda della via Prenestina. E poi verso le 6:30, 7 parte il festival, quindi delle varie piazze, che sono 12 piazze angoli del paese, un po' si accendono, un po' ripartono, un po' dopo sono un po' alternate, partono tutte le proposte artistiche, quindi uno passa da una all'altra, sono tutti interventi che durano 20-30 minuti, e quindi tu te ne puoi vedere tantissimi, sicuramente non tutti, ma tantissimi sì. Si arriva fino a mezzanotte, e il giorno dopo c'è ci sono i laboratori per i bambini, intorno all'ora di pranzo, gli strumenti del Mediterraneo fatti da Stefano Saletti, che conoscete sicuramente, Wood, Campura Cerchio, Caccia al Tesoro, su tematica ambientali, c'è una di giocoleria di Circo Massimo, strumenti del circo, sempre chiamo, sempre per i bambini, il pranzo polare che è da 1 alle 3, dove bisogna venire portandosi il piatto di goccio, un bicchiere di vetro, la forchetta di metallo. E questo pranzo popolare mi pare costi 7 euro ed è un piatto di pasta asciutta, un bicchiere di vino e delle ciambelle al vino buonissime. È tutto cucinato in casa, diciamo. Ed è una tavolata di centinaia che abbiamo già fatto 4 anni fa, è stata bellissima, c'è il tempo ci assiste come pare che sia. Andrà bene. Finito questo, si va tutti insieme a vedere lo spettacolo di Enrico Pesce, Petrolio, che faremo nello spazio della pompa di benzina, che è là sotto, il petrolio andava fatto lì. E Petrolio racconta i drammi della perforazione petrolifera in Basilicata, e Enrico ha uno spettacolo su questo, una battaglia che fa da tanto tempo. E dopodiché inizia nuovamente tutta la baradante di vendere cassette, la danza contemporanea, tutti gli ospiti musicisti, circensi, teatro, mi dimenticavo dei nomi come Rocco Papaleo, Mariella Nava, Ascanio Celestini, che fanno parte del festival, e insomma una bella storia. Per saperne di più, i dettagli in rete dove si trovano? Sicuramente sulla pagina di Stradarolo Facebook trovate tantissimo, e quindi ogni giorno ci sono rinnovate dei ricambi per sapere, per descrivere un po' gli eventi, le piante, gli spazi, come arrivare, ma insomma è facile arrivare, se uno vuole essere ecologista fino in fondo può prendere il treno che da Termini porta al Stradarolo, oppure c'è la metropolitana che arriva a Pantano e poi da lì sono 12 minuti, macchina e mezz'ora di bicicletta. Stradarolo Plastic Free a Zagarolo dal 13 al 15 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Andrea Satta dei Tête de Bois, uno dei curatori di questo festival. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Ciao caro. Ciao. Un abbraccio. Ciao.